Deludente perché abbiamo sollevato la situazione che a nostro avviso è completamente fuori controllo rispetto all'impatto del traffico aereo e quindi auspicavamo che in quella sede della Commissione Antirumore di Aeroporto con ENAC e tutti i soggetti competenti ci fosse una presa d'atto del fatto che questa nuova estate è di nuovo un profondo problema per i cittadini residenti, per la città di Bologna, anche dal punto di vista dei sorvoli. Del rumore che, io voglio ricordare, si tratta di un fenomeno di inquinamento acustico che lede, danneggia a più ampio raggio anche la vivibilità e la salute e il benessere di chi abita appunto nelle zone in cui i sorvoli sono così numerosi e impattanti. Abbiamo chiesto più e più volte soluzioni tecniche di non solo monitoraggio ma anche di cambiamenti rispetto anche alle possibilità di sorvoli fuori dalla città, quindi in direzione opposta rispetto a dove c'è la più ampia concentrazione di residenti, e abbiamo anche rilevato come i dati invece mostrino un maggio, un giugno del 2024 con un massimo numero di sorvoli sulla città. Si parla di 3.403 voli a maggio, compresi decolli e atterraggi, è un incremento di traffico che ha fatto aumentare molto il numero in termini assoluti, quindi l'incidenza dei voli. Da questo punto di vista tutte le azioni messe in campo anche l'anno scorso con l'azione diretta del sindaco Lepore per delimitare, ridurre gli orari possibili di sorvoli non sono più sufficienti se aeroporto continua ad incrementare, a aumentare il numero dei voli, ed è su questo che noi abbiamo posto l'attenzione chiedendo ad aeroporto e a ENAC, a tutti i soggetti competenti, di impegnarsi ulteriormente. Purtroppo abbiamo registrato da parte di aeroporto un atteggiamento di inerzia che a nostro modo di vedere è inaccettabile di fronte a queste valutazioni. Inoltre poi anche il tema di come si condividono, si rendono pubblici i dati pone una questione anche di trasparenza rispetto anche al capire ad esempio la questione dei voli cargo. Non abbiamo una fotografia chiara anche di questo pezzo che sta aumentando anche nel nostro aeroporto. Il Mercurio ormai è il terzo scalo italiano per trasporto merci, però appunto non ci sono dei dati trasparenti anche in termini di numero di questi sorvoli, e quindi abbiamo anche chiesto maggiore trasparenza e tempestività nel comunicare in sedi pubbliche, sui siti ufficiali, questo tipo di dato. Inoltre, come comune, due mesi fa abbiamo trasmesso alla Commissione Aeroportuale lo studio di ASL che è relativo agli impatti sulla salute dei cittadini, che analizza, come dicevo, l'effetto del rumore sulla salute. Noi crediamo che questo studio possa fornire degli elementi utili e che si debba prendere in considerazione anche all'interno di questa commissione, nelle valutazioni e nella futura programmazione. Questa richiesta è caduta nel vuoto, però noi insisteremo per approfondire questi aspetti che non possono rimanere senza valutazioni, e quindi per quello che ci riguarda ci sarà un momento anche pubblico in cui inviteremo lo stesso aeroporto con i cittadini e ASL proprio per fare un punto su questo tema che per noi è prioritario per la vivibilità e la compatibilità dell'aeroporto con la città. Io posso dire in definitiva che lo scalo di Bologna ha un ruolo sicuramente strategico, è un patrimonio importante per la città, però i disservizi registrati, già sollevati anche dal sindaco nei giorni scorsi, insieme a una crescita di numeri che non sembrano affatto essere sostenibili, pone un problema molto grave, molto profondo, e l'atteggiamento con cui ieri in commissione aeroportuale è stato esposto a me e alla vice sindaca Clancy non lasciano assolutamente soddisfatti, e quindi noi continueremo a stimolare e a dare le nostre sollecitazioni perché aeroporto si faccia pienamente carico di questi problemi, che sono i problemi delle persone, dei residenti di Bologna e di tutta la città.